sguardo si libera in volo e i miei occhi si perdono nel paesaggio che mi rapisce. Sul mio corpo un brivido, la mia mano sorvola i monti, mi riempio di te. Quanto mi riempi. La musica che nell'aria ci penetra nell'anima, sospiri alle parole, mi riempio di te, mi riempio di te, mi riempio di te. Quanto